Chiedi al mio cuore che t'ha mieti donatri, ma ciò che più s'apprezza in amor non osservi. La fede, la costanza, che di macigno ancor il cuore spezza, sono a te nomi ignoti. Eppur fede e costanza, quando insieme non regnano in un'alma, pene amor la sua forza, né mai d'amor può riportar la parola. Impara a serva te, se vai cercando te, se vai cercando te. se vai cercando impara serva a te se vai cercando te se vai cercando te se vai cercando te